Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 5 marzo 2015. Microorto da cucina. L'autoproduzione urbana diventa più ecologica. A distanza di qualche anno dal lancio dei primi coltivatori da cucina, anche la coltura idroponica da casa comincia a diventare conveniente e soprattutto diventa ecologica. Finora infatti i coltivatori urbani, macchine grandi pressappoco come un frigorifero, lanciati in Nord America a partire dal 2011, utilizzavano l'energia elettrica e l'illuminazione artificiale per consentire la crescita delle piante fuori terra, sfruttando il principio della coltivazione idroponica, cioè su materiale inerte e con irrigazione nutritiva. Ora l'utilizzo degli OLED, i LED organici, lo sfruttamento dell'energia solare aprono nuove prospettive agli orti da appartamento. Fin qui la notizia del 5 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'agricoltura idroponica è oggi una grande opportunità per le coltivazioni urbane in aree industriali dismesse, trasformate in serre o sopra i tetti degli stabili, come avviene per esempio a San Francisco. I primi esempi di coltivatori da casa, invece, almeno per ora, scontano il costo energetico dell'energia che serve a sostituire l'illuminazione del sole. Antonio Ferrante, docente di sistemi orticoli e floricoli all'Università di Milano. Se uno lo fa per prodursi il prodotto, l'insalata, la lattuca, qualsiasi ortaggio che vuole in casa, se lo vuol fare lui, è sicuro di quello che coltiva, quindi non bada a spese. Però se uno lo mette su scala commerciale non è più sostenibile, perché i costi sono abbastanza alti, perché già soltanto per l'illuminazione bisogna considerare che lì è illuminazione tutta artificiale. Ci sono sicuramente margini di miglioramento, e se si riesce ad abbattere i costi di produzione con le nuove tecnologie diventa anche sostenibile. Per ora conviene coltivare nelle serre aperte con radiazione solare, anche idroponica, ma non completamente oscure come può essere un container. Purtroppo i costi attualmente non sono comparabili con quello che si riesce a fare in una serra normale illuminata con radiazione solare, e che quindi qui si pone dei problemi dal punto di vista sostenibilità. È vero che lo facciamo noi, però spendiamo di più e utilizziamo più energia. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.